Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Occhi che sanno parlare, che ti prendono così. Come si stava bene in vacanza, vedevamo le cose sotto un'altra luce. Adesso qualcosa è cambiato, non è però solo un'impressione. Fateci caso, guardatevi attorno. Io intanto vado a salutare il nostro ospite, il dottor Paolo Vinciguerra, responsabile dell'unità operativa oculistica di Humanitas. Professore, buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Professore, tutta un'altra storia, o meglio tutta un'altra luce, perché in estate tutto era più allegro, sicuro, più chiaro, più luminoso, ci sembrava addirittura di vedere meglio, perché alcuni piccoli disturbi sembravano scomparsi. Parlo dei disturbi visivi, naturalmente. C'è molto del vero, perché in effetti quello che capita è di essere passati da una condizione con un'intensità relativa molto grande, quella dell'estate, e perché abbiamo passato molte ore all'aria aperta, a una condizione di illuminazione più bassa, come quando torniamo negli uffici o nelle abitazioni, e a questo punto la pupilla si allarga, va su un diametro medio più grande di quello che avevamo quando stavamo all'aria aperta in pieno sole, e quindi ci sembra di vedere meno bene. Questo ha a che vedere col fatto che man mano che la pupilla si allarga, alcuni difetti di vista che sono compensati dalla pupilla piccola non lo sono più con la pupilla larga. Quindi capita spesso di vedere in questo rientro dalle vacanze persone che si preoccupano di vedere peggio, quando in effetti, ecco, ad si esempio, sono abituati solo a vedere bene. Di che cosa si lamentano? Così chiediamo ai nostri ascoltatori che si riconoscono di chiamarci subito all'800240024. Professore. Beh, innanzitutto dobbiamo escludere le patologie, ma non è questo l'argomento odierno. Ma sì. Certamente quello che uno si accorge è che, per esempio, se in spiaggia riusciva a leggere anche con un occhiale da vicino che non era così aggiornato, poi a casa non ce la fa più. Se per lo stesso motivo con un occhiale non aggiornatissimo riusciva ancora a vedere bene da lontano, ora se guida la sera, che adesso chi torna dal lavoro tardi magari trova già il buio, comincia a tornare a fare quella fatica di guida che al sole non aveva, e così via. Infatti io pensavo, dato che leggevo senza occhiali, io sono presbite, e quindi anche quando lavoro al computer o leggo i documenti, i giornali, mi infilo gli occhialini che naturalmente perdo. Allora in vacanza vedevo bene senza occhiali, dicevo vedi che quanto mi stanca il computer, vedi, è tutta stanchezza. Invece no, pupilla. È la pupilla che ci aiuta tanto. È la pupilla la protagonista di oggi, perché professor Vinciguerra, abbiamo deciso di dedicarle insieme una puntata, perché della pupilla non si parla mai, invece è fondamentale. È tanto fondamentale. È quel buchino che abbiamo in mezzo all'iride. Sì, tanto per localizzarla. È quella parte nera che noi vediamo in questi iridi di tanti colori, e se la poteste vedere al microscopio, come facciamo noi, ne rimarreste affascinati, perché questo colore che della pupilla, che dell'iride che poi forma la pupilla, lo spazio vuoto della pupilla, è costituito a tanti fili di colori leggermente diversi che insieme danno quello che vediamo da lontano. Quindi è veramente un miracolo di bellezza e di ingegneria, perché è ultra sottile, ha un nutrimento ai vasi sanguigni, ai muscoli che allargano, che stringono, e voi pensate che si sposta anche leggermente, perché quando la pupilla si stringe si sposta verso il naso e un po' in alto, e quando si allarga diventa in una posizione leggermente diversa, tutto per aiutare a vederci meglio. Perché il suo compito è lei è capace a dilatarsi e a stringersi. Sì. Ora la pupilla insieme a questo ha il compito di regolare anche indirettamente la temperatura che c'è sulla retina, perché se rimanesse troppo allargata, troppa luce arriverebbe sulla retina riscaldandola, e quindi regola attraverso la quantità di luce, regola anche la temperatura che si raggiunge sulla retina. Quindi, insomma, è una sorta di guardiano della retina, una guardia del corpo. Professor Vinciguerra, ma questo vuol dire che se la luce ci dà fastidio, come mi stanno scrivendo al 349-238-6666, significa che la nostra pupilla si dilata troppo o non è più capace a stringersi bene? Ci sono alcuni pazienti che possono avere patologie di questo tipo, ma è un altro discorso, questo lo identifichiamo noi con dei test specifici, ma qui non annoiamo gli ascoltatori. Però ci possono essere disturbi che sono legati a delle condizioni infiammatorie dell'occhio che lo rendono assai più sensibile alla luce. Quello che è il termine scientifico, che è fotofobia, cioè avere disturbo alla luce, è tipico della congiuntivite, dell'infiammazione della cornea o delle infiammazioni più profonde e più gravi, oppure può essere legato al fatto che alcune forme di cataratta hanno la porzione opaca in alcune posizioni, quindi quando la pupilla in certe condizioni concentra la luce solo dove il cristallino è già opaco e in altre condizioni fa passare la luce dove è ancora trasparente, quindi uno ha più disturbo alla luce proprio perché ci vede male anche per altri motivi. Professore, invece se noi non riusciamo a vedere bene al buio, c'entra sempre questa la pupilla, magari che non si apre a dovere? Ecco, qui si aprono due possibilità. Da un lato ci può essere il fatto che la pupilla non riesce ad allargarsi, ma questo in alcuni casi è legato al passare dell'età. Voi pensate che se la pupilla media di un ventenne va dai 4,5 mm ai 7,5-8, quando arriviamo a 70 anni va in media da 2,5-3 mm fino al massimo a 5, quindi di diametro, quindi è molto più piccola, anche perché la quantità di luce cresce col quadrato del diametro, quindi se facendo l'esempio di 4 passano, per fare un esempio, 16 unità, a 7 ne passano 49 unità, perché è tutto quadrato. Quindi la pupilla grande è tipica dei giovani. Però ci possono essere... E piace forse anche per quello, no? Le donne si mettevano la bella donna per avere la pupilla grande. Pensate che in certi test ti fanno vedere la stessa immagine, una ritoccata con la pupilla grande, e uno dice che è più simpatica la persona con la pupilla grande. Senta, ma noi quando ci guardiamo negli occhi, di solito guardiamo anche l'attenzione, cerchiamo di capire l'attenzione che l'altra persona ha nei nostri confronti, se siamo attenti alle dimensioni della pupilla. Ma guardiamo le nostre di pupille, può essere utile mettersi davanti allo specchio e fare un po' un'autovalutazione? Si riesce a fare? Beh, dunque, noi ci guardiamo allo specchio, ci si avvicina e se abbiamo la luce, per esempio, dello specchio del bagno, voi vedete che se accendete, avete qualcuno che vi accende e vi spegne la luce, voi vedete come la pupilla si adatta alle due condizioni. Se avete una luce, per esempio, più vicina al lato destro o sinistro, vedete che uno dei due occhi ha la pupilla un pochettino più stretta dell'altra, perché ne tiene conto. Quindi possiamo anche osservare e dobbiamo notare dei cambiamenti nelle nostre pupille. Il riflesso di solito è consensuale, cioè voglio dire che se si stringe uno si stringe anche l'altro, ma non sempre in modo perfettamente identico, perché tiene anche un po' conto delle differenze di luce. Quindi luce, 800240024, questa è una parola chiave della trasmissione di oggi, luce intesa come anche naturalmente come vista, pupilla diventa la protagonista della nostra puntata per conoscere tutto di questo piccolo foro che abbiamo detto è così essenziale, il guardiano della retina, la guardia del corpo che si dilata e si restringe per effetto della luce, quindi cambia il diametro nell'arco della giornata, nell'arco degli anni, ma la pupilla non è solo sensibile alla luce, si dilata o si restringe anche per passione, avversione, simpatia, attenzione, paura. Santo cielo, che orecchie grandi hai, nonnina, io non me ne ero mai accorta, sai. Ah, c'è una spiegazione, mia cara, servono per sentirti meglio quando mi parli. Beh, allora... Ma nonnina, anche i tuoi occhi sono grandissimi, mi dici come mai? Oh, è molto semplice, perché mi servono per vedere meglio il bel visino della mia nipotina. Nonna, che occhi grandi hai, diceva Cappuccetto Rosso al lupo, forse però era Cappuccetto Rosso ad avere le pupille grandi per la paura. Cosa ne pensa il professor Piero Barbanti, primario neurologo all'Istituto Scientifico San Raffaele di Pisana di Roma, che è in linea con noi? Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno, beh, credo che Cappuccetto Rosso l'avesse e comunque avrebbe avuto buoni motivi per averle, ma Mi ha colpito molto la cosa detta dal collega, e ecco si spiega perché questa diversità di apertura della pupilla tra giovani e vecchi. Nelle foto fatte alla sera vengano gli occhi rossi ai bambini e meno agli anziani. Ecco, finalmente ho capito. Volevo dire, per quanto riguarda la paura, le pupille, quando noi abbiamo una situazione stressante, si dilatano. La cosa sorprendente, quindi, è che le pupille sono le nostre mani sudate di fronte allo stress, ma rispetto alla comparsa di sudorazione nelle mani, che è uno dei sintomi del nostro stress, la reazione è immediata. Il valore, perché la madre natura ci ha dotato di questa reazione apparentemente strana, perché nella reazione dello stress noi dobbiamo far entrare tanta luce, dobbiamo vedere tutto, vedere bene, anche se, come dirà, avrebbe qualcosa da ridire, perché insomma nella reazione per vedere da vicino in realtà l'occhio si stringe anche, ma dobbiamo vederci chiaro per scappare ancora più che per attaccare. E per questo la fisiologia dell'occhio mediata dal sistema nervoso ha fornito una specie di vite americana, che è il sistema nervoso simpatico, che si arrampica lungo la carotide, va poi a livello dei muscoli che controllano la pupilla e fa sgranare gli occhi, diciamo sgranare. Infatti le si sgrana gli occhi, sì. E quindi senza dubbio, non so, se uno di noi guarda uno studente prima dell'interrogazione, vede le pupille molto Mi guardava dilatate. Con tanto d'occhi, si dice, professor Barbanti, ma è vero che le nostre pupille parlano non solo delle nostre paure, ma anche dei nostri dolori fisici? Sì, parlano di dolori fisici, e questo è interessante, perché se è vero che con la paura dilatiamo la pupilla, nei confronti del dolore, la pupilla è veramente l'espressione di come in parte noi lo stiamo affrontando. Di fronte al dolore acuto, la pupilla si dilata. Se qualcuno vuole essere un po' dispettoso con un proprio amico, gli dà un bel pizzicotto sul margine superiore del trapezio, che è quel muscolo che c'è tra il collo e la spalla, il riflesso ciglio spinale, e si vede la pupilla che si dilata. Cioè, se il dolore è acuto, se la sofferenza è acuta, le pupille si dilatano, cosa vuol dire? Cerco di far qualcosa, non desisto, cioè attacco o scappo. Tengo duro. Invece nel dolore cronico le pupille tendono ad essere più piccole, una sorta di rassegnazione. Una sola eccezione, a me piace molto il tema del mal di testa, a volte le pupille fanno l'occhiolino, e cioè diventano asimmetriche pur non essendo malate, e cioè nel corso di un attacco di una cefalea a grappolo, per esempio, avremmo una pupilla più chiusa dal lato affetto e quella più aperta. E, cosa che spaventa tanto i pazienti e certamente induce a fare qualche esame, ma è fisiologico, dopo attacchi di emicrania violentissimi, al contrario, una pupilla può rimanere più dilatata dell'altra. Professor Barbanti, ma le pupille possono tradire il nostro grado di attenzione, ma anche gli stravizi che abbiamo fatto? Sì. Insomma, parlano in continuazione queste pupille, ogni tanto chiudete gli occhi. Assolutamente. Beh, intanto ci possono anche dire se ci stiamo annoiando o no, perché in condizioni di pilota automatico, e cioè di scarso interesse, stanno come le braccia conserte, più piccole, si sgranano, si dilatano maggiormente quando il nostro livello di attenzione cresce. Ma poi le pupille sono notoriamente indicative dei stati di intossicazione da sostanze voluttuarie, una per tutti l'alcol, che è molto usata, e tutte le droghe che hanno un effetto deprimente, nel senso di rilassante, la cannabis, l'eroina, le stringono. Tutto ciò come la cocaina e l'anfetamine, che sono eccitanti, le dilatano. Mi viene da concludere con una frase: noi mediterranei siamo fortunati, perché se è vero che le pupille sono l'espressione anche dei nostri vizi, speriamo di non averli, ma del nostro stato d'animo, con begli occhi nocciola si vede poco la dilatazione. Sfortunati gli occhi azzurri. Sfortunati gli occhi azzurri. Grazie, professor Barbanti. Buonissima giornata. Quando leggi ti viene il mal di testa, vero? Sono quei manuali sulle macchine straniere che mi fanno venire il mal di testa, questo è sicuro. Potrebbero essere gli occhi, dovresti farti controllare la vista, Fonzie. Ehi, l'ha detto anche Ralph ieri. Cercherò di prendere un appuntamento per te dal padre di Ralph. Sì, purché non mi metta un cucchiaio in bocca e non mi dica di fare... No, non credo che ti farà questo, al massimo ti metterà un paio di gocce negli occhi. È tutto qui? Se è per due gocce ci vado, ma non di più, eh? professor Vinci Guerra, noi torniamo a vederci chiaro, partiamo dalla pupilla che è il filo conduttore della trasmissione di oggi. Abbiamo in linea con noi Susi dalla provincia di Forlì Cesena. Buongiorno Susi. Buongiorno a voi, buongiorno a voi. Eccoci qua, mi dica. Allora, volevo chiedervi cortesemente, c'è cioè mia figlia più piccola che ha 19 anni, sin da piccolissima aveva le pupille estremamente dilatate, al punto che un medico un giorno mi ha anche chiesto se le davo dei tranquillanti, ovviamente no, e poi insomma hanno accertato che aveva le pupille così di sua. Naturalmente dilatate. Volevo sapere se occhi chiarissimi aggiungo. Occhi chiarissimi, grazie. Magari è un'indicazione che al professor Vinci Guerra è utile per darci il suo parere. Professore. Prima che il professor Barbanti, che dimostra di essere un acutissimo osservatore, ha immediatamente collegato il riflesso rosso all'età. Vedete il grande clinico. Qui è anche collegato il fatto che chi ha gli occhi chiari mostra di più una condizione rispetto a un'altra. Per il caso della signora penso che sia semplice fare dei test per vedere quanto effettivamente c'è di anomalo, sì, e quanto no, perché noi possiamo sottoporre un occhio a una quantità di luce determinata e sappiamo per classe d'età quant'è il diametro che deve avere e quanto si deve stringere, quindi possiamo già escludere. Poi c'è una famosa prova dei tre collieri che è tradizionale, che va a escludere le patologie associate che si manifestano sulla pupilla. In generale però sono cose tipiche dei giovani di avere delle pupille molto grandi. Abbiamo Claudio che ci chiama da Milano, 800 24 00 24. Benvenuto Claudio, buongiorno. Buongiorno. Occhi chiari o occhi scuri? Chiarucci. Chiarucci. Che è un colore indefinito. Come? Ma quei colori un po' strani, un po' giallognoli, un po' verdastri, che non si capisce bene, insomma. Che cambiano con la luce. Sarebbe stato meglio averlo un bel blu cobalto, purtroppo. Professor Vinci Guerra, il colore degli occhi che cambia, ci sono degli occhi che cambiano colore, e ho letto anche che c'erano delle lenti, un'operazione che viene fatta nel mondo da pochissimi specialisti, e io non sinceramente vorrei parlarne anche col professor Vinci Guerra, non mi fiderei, che permette di cambiare il colore degli occhi definitivamente. Poi ritorniamo a Claudio, è possibile? Dunque, prima spieghiamo come avviene il colore. Sì. Il colore è determinato da quanto pigmento c'è negli strati di questo tessuto e che fanno più o meno vedere il flusso circolatorio che c'è all'interno. Quindi a secondo più o meno trasparente vediamo un po' più il violetto dei vasi sanguigni piuttosto che vedere il pigmento che è marrone o scuro. Quindi tutte quelle variazioni sono legate alla quantità di pigmento. Gli occhi possono cambiare colore specialmente quando noi abbiamo delle infiammazioni, perché queste infiammazioni possono ridurre la quantità di pigmento e quindi di conseguenza cambiare l'occhio, tant'è che alcuni hanno un occhio diverso dall'altro, come Alessandro Magno, che aveva avuto in guerra delle ferite gravi, quindi quest'occhio malato si era decolorato, che quindi è un segno, una variazione più delle volte di fatti patologici, e chi diciamo così cambia colore utilizzano dei laser che colpendo l'iride ne creano un po' delle infiammazioni e quindi diciamo è come generare un danno per ottenere un risultato estetico, non sì, lo consiglierei. È una risposta. Claudio, scusi, noi ci siamo fermati sul colore dei suoi occhi, ma immagino che lei invece avesse una domanda da fare. Sì, ecco, più che una domanda. Una domanda, diciamo così. Anni fa avevo un amico che aveva un difetto visivo, portava gli occhiali. Sì. E a un certo punto vedevo che faceva una ginnastica oculare. Ovviamente io lo prendevo un po' in giro e dico, ma nel giro di 2 o 3 anni di ginnastica oculare ha lasciato gli occhiali. Quindi volevo sapere se magari i professori potessero... Professor Vinci Guerra, è possibile? O magari ha compensato il difetto che aveva con un altro difetto? Ma dunque, ci sono degli esercizi che si chiamano biofeedback, cioè ci si insegna a sfruttare meglio le proprie capacità visive. Mm-hmm. Ci sono esercizi così come li ha descritti, penso sommari, o quelli che hanno addirittura l'aiuto di strumenti che misurando l'infrarosso emesso dalla retina rendono percepito la capacità visiva. In generale però più facilmente si tratta di difetti di vista mal corretti che poi vengono attraverso una rieducazione eliminati, cioè io non avevo un difetto, mi ha dato l'occhiale che di cui ne avevo bisogno, mi abito, non riesco a farne a meno, attraverso una rieducazione ne vengo fuori. Questa è la cosa più frequente che noi vediamo. Spesso sono difetti mal corretti all'origine. Quindi questa ginnastica però, che, di cui si parla anche, ci sono delle indicazioni, delle istruzioni anche sui siti che si trovano su internet, possiamo farla o no? È consigliabile o no? Noi abbiamo fatto un'app sul nostro, nostro istituto che aiuta un po' a spiegare quali sono gli esercizi che non sono dannosi per la vista. E soprattutto nella vostra applicazione c'è un modo per anche evitare di stressare troppo gli occhi davanti al computer. Sì, consigliamo. Non sia timido, ne parli, professore. Ma consigliamo degli intervalli sia per i bambini che a volte ingolositi dai giochi, dai videogiochi, stanno troppe ore e quindi polarizzando l'attenzione solo per vicino non consentono in un'età dello sviluppo di sviluppare anche abilità visive anche per lontano, perché come tutto nel nostro organismo è un fatto di svilupparle. E poi per gli adulti invece, dove una condizione permanentemente in una direzione danneggia, tant'è che la legge 626 per la sicurezza sul lavoro prevede delle pause, certo, durante il lavoro a vita terminale. Allora, si chiama iVista ed è un'app gratuita, vero professor Vinci Guerra? Così lo diciamo subito agli ascoltatori che si sono subito attivati. Pupilla, luce, abbiamo parlato di disturbi, parleremo naturalmente di cataratta ma anche di retina, dove la luce, professor Vinci Guerra, che passa attraverso questo forellino va a finire. Essere e benessere. Finirà, me l'hai detto tu, ma non sei sincera, te lo leggo. Osservando la persona che abbiamo di fronte, notiamo, guardiamo i suoi occhi e possiamo vedere il grado di attenzione che ci sta dedicando, se le piacciamo. Le donne nel Rinascimento mettevano, professore, per sedurre, per essere più belle, queste goccine di bella donna proprio per dilatare la pupilla. Ma professor Vinci Guerra, lei guardando negli occhi un paziente, che cosa vede? Quando guardiamo, intanto noi usiamo un microscopio, siamo avvantaggiati perché si ingrandisce moltissimo, si possono vedere i dettagli, poi abbiamo una luce che fa muovere la pupilla, quindi ne vediamo subito lo spazio, la dinamica, quindi riusciamo a vedere un pochettino già da questa prima osservazione lo stato di trasparenza di tutte queste strutture, tante cose che ci aiutano poi a una diagnosi. Professore, abbiamo detto che dalla pupilla passa la luce, ma io vorrei sottoporle alcuni sintomi che mi arrivano dagli ascoltatori, sempre a proposito di luce, la vista annebbiata temporaneamente, da che può essere un segnale da sottovalutare o invece può essere la spia di un problema che va indagato e controllato? Ma una vista che peggiora in generale non è mai da sottovalutare, perché a volte è il modo di prendere delle patologie in una fase molto iniziale, quando è assai più facile curarle. Però ci sono anche dei casi non allarmanti, cioè molte cause, le più frequenti, non allarmanti. Voi pensate che basta che ci sia un po' di secrezione sulla congiuntiva per un po' di irritazione, un po' di vento, e allora questi agglomerati un po' più densi che si spostano sulla superficie dell'occhio possono temporaneamente interferire con la visione. Noi apriamo e chiudiamo l'occhio un po' di volte e questo, come un tergicristallo, sono spazzati via e uno torna a vedere bene. Andiamo a Livorno, c'è Patrizia e poi Lorenzo da Salerno. Patrizia, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, buongiorno. Eccomi, Patrizia, vada. Sì, pronto, buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Volevo chiedere questo al professore, volevo sapere, io di solito quando mi sveglio al mattino ho sempre gli occhi un po' arrossati e faccio uso di colliri, però il collirio, quello leggero, diciamo, che rinfresca, non mi dà nessun risultato. Beneficio. No, devo per forza necessariamente usare dei colliri medicamentosi. Mi domando, che si prescrive da sola, Patrizia? Sì, vado in farmacia, sceglie quello che le piace. Sì, chiedo quali effetti poi... Professor Vinci Guerra, il collirio fai da te? Assai pericoloso, perché vedete, intanto, come avete sentito la telefonata, spesso il paziente non ha neanche un'idea del principio attivo che usa e degli effetti collaterali. Voi pensate che ci sono farmaci che sono utilissimi per pochi giorni, ma che somministrati a lungo possono dare cataratte e glaucoma. Possiamo capire quali sono? Magari qualcuno li sta usando proprio perché... Ma magari come cortisone. Possono predisporre a infezioni erpetiche, cioè attenzione, non facciamo la lista di tutti i farmaci. No, immagino però che non sia sono possibile. Sono quelli che spesso danno il beneficio maggiore immediato, mm-hmm. perché spengono i sintomi senza curare la patologia, perché non è stata identificata. Non dico che il farmaco in sé non è utile, il contrario, ma va dato dopo aver fatto una diagnosi e con un ragionamento. So che c'è questo, lo do per tanti giorni con questa posologia, dopo passo a quest'altro e così via. Dato a caso, l'autoprescrizione è più spesso causa di danni che di vantaggi, o di instaurare un circolo vizioso per cui il paziente diventa dipendente e prima di ripristinare una autoregolazione normale ci vuole del tempo e della fatica. Professor Vinci Guerra, lampi di luce, flash... Questi non hanno a che vedere con la pupilla, sì. Hanno più a volte a che vedere con le alterazioni di una componente dell'occhio che si chiama vitreo, che è una gelatina che assomiglia al bianco dell'uovo quando non è cucinato, che nel tempo si può contrarre, retrarre e tirare sulla retina, dove contrae delle adesioni normalmente molto tenaci. Quindi questa alterazione è un sintomo di una trasmissione di una forza alla retina molto spesso. Abbiamo Lorenzo che ci chiama da Salerno, 800240024, benvenuto, buongiorno. Grazie, buongiorno professore. Sì, niente, nel 2006 ho avuto un'infezione alla retina che mi ha provocato una trasudazione che si è formata praticamente questa infezione, che sono stato curato dal dottor Sirpe di Roma, che mi ha fatto dei boli di cortisone, una siringa di cortisone sperimentale nell'occhio. Senta Lorenzo, va bene, ok, venga all'oggi. Adesso volevo solo sapere se ci sono delle tecniche, visto che ho perso quasi tutta la vista a sinistra, sì? per il campo visivo centrale, se attualmente esiste qualche rimedio nuovo, qualche cosa in via di sperimentale dove posso rivolgermi, non lo so, se il professore è corrente di qualche novità. Grazie Lorenzo. Professor Vinci Guerra. Allora, il nostro ascoltatore ha avuto la fortuna di essere curato da uno dei luminari italiani, il professor Mario Stirpe, che credo sia non potesse finire meglio. Quindi certamente lui avrà identificato in modo adeguato e instaurato la giusta terapia. È difficile consigliargli di meglio. Certo. Professor Vinci Guerra, arrivano degli altri messaggi al 349-238-6666, li leggerò nel corso della trasmissione, ma noi abbiamo in linea il dottor Attilio Speciani, che voglio salutare e ringraziare. Buongiorno. Dottore, buongiorno, specialista in allergologia e immunologia clinica a Milano, grande amico di Essere Benessere. Perché il dottor Speciani? Perché la vista va protetta, ma va anche nutrita. Dottore, ci sono delle ricerche, studi che sottolineano gli effetti salvaretina di alcuni alimenti ricchi, ad esempio, di particolari sostanze che sembrano in grado di proteggere la salute della vista, in particolare della retina. Ah beh, che fantastica questa cosa, perché in realtà ci sono un po' di aspetti che sono legati alla fine ad una cucina che è molto vicina a quella mediterranea, quindi il fatto che il pesce ad esempio con gli omega 3, ma anche gli omega 3 vegetali della perilla, dei semi di lino, sono degli elementi che consentono alla retina, come dire, di funzionare meglio. Tra l'altro se sei il professor Vinci Guerra, mi piace, oltre che salutarlo, anche capire, è sempre una delle cose più strane quando si studia, il perché delle parti che guardano, in realtà guardano verso il di dentro e non verso il di fuori, no? Cioè gli elementi finali con cui noi guardiamo effettivamente le cose sono, come dire, più protetti e guardano un po' di sottecchi, e questa è una cosa che piacerebbe sentire. E poi devo dire, tutti conoscono il mirtillo, a me viene da sorridere quando uno va al cinema la sera al buio e si mangia le patatine fritte. Bisogna preparare dei mirtilli, e la gente mangia i mirtilli così almeno vede meglio, vede il film, se lo gode e vive meglio. E poi completo, perché io so che qualcuno lì mi chiama dottor Noce, però non è colpa mia. Non è colpa mia. Le noccioline, non quelle tostate salate, quelle solo secche, le noci, le mandorle, hanno dentro degli oli che sono preziosi, ricchi di zinco, di vitamina E, che danno una mano alla nostra visione, e quindi affiancando una buona nutrizione con terapeuti e clinici come quelli che avete lì in questo momento, si ha veramente un vantaggio enorme. Quindi, dottor Speciani, adesso che finisce la stagione dei mirtilli, li sostituiamo con le noci, che possiamo anche trovare sgusciate, quindi in grigli perfetti. Ecco, una micro notazione, la noce sgusciata non lasciamola lì troppissimo, perché diventa un po' arancidina, vero? Esatto, è quel punto. Poi infatti, tutti i buoni oli su cui diciamo un mucchio di cose buone, in realtà che poi non ci sono più. Ho fatto il pane, ho messo le noci, non le ho assaggiate, erano lì, io le mangio tutti i giorni, però quelle lì, e mi ha rovinato il pane, perché la noce era arancidina, eccola lì. Vedi, lì bisogna assaggiare. Prima assaggiamo in un pezzettino e poi scegliamo quelle fresche. Dai, va bene. Dottor Speciani, grazie. Un saluto anche dal professor Vinci Guerra. Volete salutarvi prima delle informazioni sul traffico? Sì, mi fa un piacerissimo, Paolo. Il figlio mi ha aiutato a risolvere un caso complessissimo di una ragazzina con una infiammazione cronica che non si risolveva, che traeva origine, voi pensate, da una sindrome da cattivo assorbimento che lui ha risolto molto bene. Bravo, bravissimo. Dai, grazie. Allora, a presto, dottor Speciani. Grazie, noi andiamo a sentire le informazioni sul traffico e ritorniamo subito dopo qui. Spazio alle vostre domande. Essere e benessere. Eccoci qui, siamo tornati insieme, professor Vinci Guerra. Le riassumo, alcuni ascoltatori mi scrivono al 349-238-6666, così lo ricordo, problemi relativi a disturbi visivi in seguito a correzione a chirurgia refrattiva, e alcuni di questi si lamentano, ma è la pupilla che in qualche modo non è più capace a fare il suo lavoro, è possibile, professor Vinci Guerra? No. Il problema è un altro, che soprattutto con le tecnologie del passato, oggi sia i laser nuovi, ma soprattutto un approccio diverso, deve tenere conto in grande considerazione la pupilla e il suo diametro massimo, perché se io ipotesi una pupilla che la sera diventa di 6 mm, ma io correggo la miopia o l'ipermetropia con un diametro massimo di 4,5 o 5, è ovvio che quando la pupilla si dilata avrà una porzione che non ha la correzione. E quindi il paziente ha due fuochi, uno perfetto e l'altro come era prima o peggio, quindi ha un'immagine con tanti aloni. Quindi più delle volte c'è una discrepanza fra la correzione e l'area che la pupilla va poi a intercettare, e questi sono tutti i calcoli che facciamo prima. Quindi è essenziale? Sono essenziali i calcoli, gli esami che si fanno, che vengono fatti prima di essere operati, perché questi ci assicurano che una correzione perfetta. E questo vale anche per la cataratta, dove si devono scegliere di fare delle aperture della capsula dentro cui noi poi introduciamo il cristallino, che sia così grande da sfruttare tutta la pupilla, perché se per comodità si fa piccola, poi il paziente avrà una visione notturna peggiore. Teniamo conto che però ci sono degli interventi che un tempo, pensa alla cataratta, venivano fatti in età avanzata, che adesso si fanno molto prima, e quindi professor Vinci Guerra, nella correzione voi tenete conto anche dell'età del paziente, no? Sì, infatti oggi ci sono lenti di vario tipo che possono correggere anche la presbiopia, che nei giovani magari è più desiderata avere una correzione doppia sia per lontano che per vicino, ma soprattutto teniamo conto anche della pupilla e della sua posizione. Perché posizione? Perché ahimè non tutti hanno una pupilla che è centrata nel centro della nostra cornea, del nostro occhio, e potrebbe essere spostata, e la lente che noi impiantiamo va centrata sulla posizione della pupilla. Noi qui nel nostro istituto abbiamo uno strumento che durante la cataratta ci fa vedere nell'occhio del chirurgo, dove sarà la pupilla quando è stretta, perché noi dobbiamo operarla in dilatazione, ma poi lui la vita la passa in condizioni non farmacologicamente dilatate. Noi dobbiamo centrare la lente nella posizione della sua vita normale e questo strumento ci aiuta moltissimo. Quindi questo sottolinea ancora una volta l'importanza, professor Vinci Guerra, degli esami preliminari. Eh sì. Assolutamente. Andiamo a Sante, che ci chiama da Venezia. Buongiorno. Salve. Buongiorno, sta bene? Molto bene. Oh, bellissima giornata di sole. Oh, se la goda allora. Mi dica. Allora, io ho gli occhi cerulei. Mm? Sono molto sensibile alla luce, sì. E per cui quando incrocio una fonte di luce come il sole la sera o la mattina, rischio di scatenare un'emicrania. Sì. Ci sono due cose: uno, al di là di portare gli occhiali per evitare questo caso, ma se ci sono degli analgesici specifici per questo tipo di emicrania, perché... Sante, parlo al plurale perché immagino che il professor Vinci Guerra ci dica la stessa cosa. Noi non possiamo suggerire farmaci in diretta per casi in cui il medico non ha avuto modo di vedere il paziente. Quindi, però il professor Vinci Guerra ha sicuramente un legame che era stato già anticipato dal professor Barbanti tra emicrania e luce e sensibilità, sicuramente ce lo può spiegare. Sì, però vorrei aggiungere qualcosa in generale, sempre molto interessante. Quando sento questi racconti mi viene molto spesso in mente che noi dovremmo fare un esame della vista a questi pazienti con una dilatazione molto approfondita, perché molto spesso si scoprono dei difetti come l'ipermetropia che genera un mal di testa con un meccanismo che adesso vi descrivo. Il muscolo che comanda la dilatazione, il restringimento della pupilla ha la stessa origine come posizione su un muscolo che comanda l'accomodazione, che è quella funzione attraverso cui l'occhio mette a fuoco da lontano e da vicino. Sì. L'ipermetrope, questa funzione, l'accomodazione, non la usa per vedere da vicino, ma per compensare molto spesso il suo difetto da lontano. Quindi il muscolo è sempre contratto. Quando arriva luce e lui deve stringere la pupilla, aggiunge una contrazione su una zona che è già in spasmo e gli si scatena un mal di testa. Molto spesso io riconosco questi pazienti anche da una ruga che hanno in fronte. Tu gli fai una dilatazione, gli misuri bene, gli dai la correzione giusta, gli la correggerai con laser se lo desidereranno e improvviso gli scompare tutto. Senta, per le altre rughe invece niente. Perché se la ride lei? Un'altra cosa divertente, questi pazienti, questi per metodi poco corretti, quando tornano a casa vorrebbero spegnere tutte le luci, gli piace vivere in penombra, che è l'opposto del mio, perché per vedere bene ha bisogno di più luce. Quindi se si sposa uno di questi, hanno il conflitto costante fra chi accende e spegne le luci. Quindi fatevi controllare la vista prima di bisticciare e di scegliere l'anima gemella. Noi possiamo salutarci, professor Vinci Guerra, quindi il messaggio di oggi in stampatello, proprio due regoline, qual è? La pupilla è importantissima. Tanti dei nostri disturbi originano dalle influenze che la pupilla hanno sulla vista, non sottovalutiamo i sintomi e quando c'è qualcosa fatevi vedere da uno specialista. Insomma, da questo forellino dipende la nostra vista. Ma voi pensate che i mercanti cinesi avevano uno specchio sul banco e quando presentavano la merce, dalla dilatazione capivano qual era l'oggetto su cui potevano tenere duro sullo sconto. Ecco, e vi diciamo solo questo, attrezzatevi. Professor Vinci Guerra, grazie, ci siamo divertiti con lei, abbiamo imparato un sacco di cose, mi piace. Buona giornata, buon lavoro. Anche a Gianmarco Ferronato che è in regia alla parte tecnica. E come sempre a Laura Vanossi che è con me in redazione. L'appuntamento torna domani, che sono a Bari, alla Fiera del Levante. Venite a trovarmi, dai che ci abbracciamo. A domani, da Bari alla Fiera del Levante. Essere e benessere.